Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, tre partite in programma stasera alle 18 Genoa-Bari e Bologna-Atalanta che sono recuperi di campionato, alle 21 Fiorentina-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia, tutte ovviamente in diretta televisiva. Oggi è un mercoledì ed è un giorno classico dunque di pallone, ma è tempo di prepararci a giorni orari meno classici, come per esempio il venerdì e il lunedì. L'argomento di oggi è il calcio che verrà. E con il calcio direi la vita che verrà, intesa, senza esagerare evidentemente, intesa come quella ulteriore fetta di tempo che il calcio prenderà al nostro tempo libero, per l'appunto, alla vita familiare, se vogliamo metterla con un pizzico di retorica. Siamo collegati con il professor Giorgio Simonelli, docente dell'Università Cattolica di Milano. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Bentornato Giorgio Simonelli. Riassumo la situazione di oggi in Italia. Oggi si giocano due partite il sabato alle 18 e alle 20.45 e un posticipo serale è previsto la domenica alle 20.45, salvo emergenze, salvo recuperi, salvo cataclismi. Come sarà il progetto della stagione prossima avventura? Allora, o uno o due anticipi al venerdì. Nel senso che se c'è la Champions, nei periodi di Champions si potrebbero giocare due anticipi il venerdì sera alle 19 e alle 21, ma in ogni caso nei periodi non di Champions ci sarà un anticipo fisso alle 20.45. Il sabato c'è la partita fissa delle 20.45 anche questa e due anticipi possibili alle 18 o alle 20.45 di nuovo se c'è la Champions. La domenica ci sarà l'anticipo fisso delle 12.30, il posticipo fisso delle 20.45, quelle 3 o 4 o 5 partite che resteranno a seconda delle casistiche alle 15 ed è previsto ulteriormente in 7-8 occasioni durante l'anno, salvo accordi diversi che si stanno consumando in questi giorni, un posticipo anche il lunedì sera alle 20.45. Hai preso nota, professore? Sì. È un po' che prendi nota. Allora, visto che sei un appassionato di calcio, un tifoso milanista, tra l'altro da sempre dichiarato, un docente di storia della televisione, della radio, della comunicazione e di tutto il resto all'Università Cattolica, mi piacerebbe che sta cosa la inquadrassi e ne parlassimo sia da un punto di vista, come dire, tecnico di fruizione, ma anche da un punto di vista di costume, nel senso di famiglie. Cominciamo dal costume, Cominciamo da dove la prendi più volentieri tu. No, è chiaro che insomma, specialmente di questi tempi che sono stati tempi, come dire, di evocazioni forti, perché ricordiamoci che 50 anni fa è cominciata una robetta, insomma, che ha segnato molto la cultura nazionale, che si chiama tutto il calcio minuto per minuto. Ecco, l'hai presa nel modo ideale, perché partiamo da lì. Siamo, insomma, dire, un po' tutti sotto l'influsso di questa nostalgia, e ricordiamo anche che in quello stesso giorno cominciò un'altra cosa, il famoso secondo tempo delle 19.15, no, il secondo tempo di una partita del campionato registrata, trasmessa alle 19.15, che divenne un altro rito, un po' meno importante ma abbastanza significativo degli italiani molti anni. Certo. Allora tutti viviamo, come dire, sotto questo effetto nostalgia ed è evidente che uno dei grandi motivi di fascino del calcio era proprio questa sua ritualità, la contemporaneità di tutte le partite. Il calcio è cresciuto anche grazie a questo, anche grazie al fatto che, come si dice, dall'Alpi a Sicilia, lungo tutta questa penisola, non dimenticare il Lilibeo, che fa sempre fino al Lilibeo, in ogni ordine e grado, quindi dalla Serie A al campionato dilettanti, le partite andavano in scena tutte nello stesso momento. Questo ha reso possibile alcune cose straordinarie come tutto il calcio minuto per minuto, ma ha anche dato l'idea di un grande rito collettivo. Non a caso, insomma, Pasolini diceva che il calcio era una delle poche cose dove c'era una sopravvivenza del sacro. Sì. E la sacralità consisteva anche nel fatto che, come i riti sacri, insomma, si consumano in un momento preciso, che cambiava solo col cambiare delle stagioni. Poi è accaduto progressivamente, come dire, uno smangiarsi di questa rigidità. Nel senso che prima è cominciato un posticipo, poi due, poi tre, e poi si è arrivati a quello che si chiama comunemente lo spezzatino. Ecco, io adesso lo metto lì, insomma, non vorrei che si passasse dallo spezzatino all'omogeneizzato, per usare sempre termini che hanno a che fare con il cibo, nel senso che della contemporaneità potrebbe non restare quasi nulla, il che come dire, non ne facciamo una tragedia, non ne, capisco benissimo quali sono le esigenze di questa cosa, ma io inviterei tutti a tener conto del fatto che l'oggetto è tanto più interessante, tanto più importante quanto anche riesce a celebrare la sua unicità. Ecco, così fatto, secondo me, corre dei rischi. La unicità a rispettare i diritti degli abbonati, io trovo quel minimo di certezza, non dico del diritto, non esageriamo, ma insomma degli impegni che una società sottoscrive vendendo un abbonamento a un suo spettatore e oltretutto la necessità per le famiglie, per le persone che sono persone prima che telespettatori di organizzarsi, insomma di prevedere se da lì a 3 settimane questa benedetta squadra giocherà non più il sabato o la domenica, ma il venerdì, il sabato o la domenica o il lunedì, che mi sembra un ampliamento di questa casistica. L'ANSA ci informa che stamane Lippi ha fatto visita a Vinovo, alla Juventus. È un giro attraverso le società che il commissario tecnico ha in programma in questa settimana. Ieri è stato a Milanello, ha cercato anche di convincere Nesta, quanto si è saputo, a riprendere in considerazione l'idea di tornare in nazionale. Ma è chiaro che la visita di stamane alla Juventus ha tutta l'aria di una visita al capezzale, no? Calcolando, tenendo conto sia delle condizioni della Juventus sia del fatto che il futuro di Lippi, salvo errori ed omissioni, è effettivamente destinato a essere quello del ritorno al capezzale, per l'appunto, della Juventus. Torniamo in compagnia del professor Simonelli, che ci ha ricordato prima come il 10 gennaio 1960 fosse partito non soltanto il calcio minuto per minuto, ma anche la registrata alle 19 del secondo tempo di una partita di Serie A, che poi Giorgio, dopo qualche tempo, non tantissimo, cominciò a essere la registrata del secondo tempo in linea di massima, ma del primo se nel primo si erano segnati più gol, ricordi? Nel tempo in cui c'erano stati più gol. Certo, bravo. Perché? Perché fino alle 10:30 di sera sulla Domenica Sportiva i gol non li vedeva neanche il Padre Eterno. Forse il Padre Eterno sì, insomma. Assolutamente, anche per motivi, diciamo, tecnologici, ci mancherebbe. Ecco, dato che io appunto ho impropriamente nominato il Padre Eterno, restiamo lì per un attimo. Qualche anno fa, in occasione di rimescolamenti di calendari, in particolare la domenica, c'era stata anche una discreta opposizione da parte della Chiesa, se non ricordo male, perché il principio era che il settimo giorno, insomma la domenica, andava dedicata alla religione, e questa eccezione pomeridiana a blocco granitico non aveva mai ostacolato, ma già era stata, come dire, da una certa parte tollerata per qualche tempo. Il fatto di frantumarla aveva rimesso in discussione alcune cose, mi pare. Credo che lì, insomma, posso dire, si faccia un po' di confusione, perché insomma, a me non sembra che in alcun modo, ecco, gli orari delle partite di calcio possano incidere sulla frequenza alla Santa Messa, che mi sembra che è quello che la Chiesa ogni tanto paventa, no? Perché tanto perché ricordo che quando le partite si giocavano tutte rigorosamente di domenica, la frequenza alla Santa Messa era molto più elevata di quando oggi sono state spostate alcune in giorni feriali. Ecco, quindi bisognerebbe magari fare due righe di conti prima di preoccuparsi di alcune cose. E poi perché, insomma, io credo che gli orari delle messe, anche delle altre forme di culto, sì, che ci sono nel, sì, settimo giorno, insomma, si erano nel frattempo stati spalmati, no? Alla maniera di conciliabili con gli orari delle partite. Perché io poi temo un'altra cosa che volevo, se volevo dire prima, quando tu accennavi ai diritti che hanno le persone che sottoscrivono un abbonamento, che comunque sono abituate ad andare allo stadio. sai, queste persone sono sempre meno importanti e sempre meno rispettate dalle scelte, anche perché sono sempre meno. Questo è il punto. Io credo che questa è una cosa che bisogna prendere in considerazione. Io delle volte ho dei tuffi al cuore quando vedo certe partite di calcio in televisione. Sì, non parliamo della Serie B poi, ma anche di certe partite di Serie A. Io vedo dei vuoti, dei vuoti sugli spalti di alcuni stadi, di squadre che stanno andando benissimo, che dovrebbero suscitare l'entusiasmo non solo dei tifosi ma anche dei cittadini. Faccio un esempio: il Cagliari, sta viaggiando, a me pare, ben al di sopra delle sue premesse. E da due stagioni, tra l'altro. Eppure, insomma, vedo al Sant'Elia dei vuoti che mi fanno veramente una tristezza. Allora, che cosa è accaduto? È accaduto che purtroppo il pubblico che va allo stadio è un gruppo sempre più ridotto e soprattutto sempre più omogeneo. Non c'è più nessuno che ci va per il piacere dello spettacolo, insomma, vuol dire, si riduce ad una frangia, come dire, di tifosi sempre presenti. Ma questo non va bene per il calcio, e questo non ostacola sicuramente la pratica religiosa, perché non distrae nessuno che non sia già distratto. Sì, questo è molto saggio. Professore, arriviamo alla consueta, perché poi si finisce sempre lì. Tu hai giustamente appena ricordato i vuoti degli stadi, che fanno da contraltare ai pieni degli stadi altrui. Ho letto nei giorni scorsi che la Bundesliga quest'anno ha ulteriormente aumentato il numero di presenze allo stadio. Allora, ho sotto gli occhi una tabella parametrata delle varie partite trasmesse in diretta in TV e spezzettate anche altrove, anche in Inghilterra, anche in Germania, in Francia, in Spagna, da tutte le parti, più o meno sul modello di come sarà quello che ho annunciato all'inizio, da noi il prossimo anno, più o meno. Cosa continua a mandare allora negli stadi gli spettatori di altre nazioni a parità di offerta televisiva? Ma dunque, la cosa è di difficile lettura, come si dice, però insomma, intanto è vero che più o meno gli orari sono quelli, ma mi sembra che in Italia si stia prendendo una piega ancora più decisa, nel senso che sempre più, insomma, il calcio diventa un oggetto di palinsesto televisivo. Sì, sempre più tardo serale, intendi? Sempre più tardo serale. Questo è vero, scusami, ti interrompo un istante, perché in Bundesliga non c'è una sola partita che non sia il venerdì sera 20:30 che cominci dopo le 18:30. E in Inghilterra alle 20 al massimo si gioca il lunedì sera, e se no 18:30 è l'orario più tardivo. E quindi questa è già una cosa. È una bella spiegazione. Poi è il fatto che comunque in questi paesi il calcio, cioè, che diciamo, partiamo dal contrario, che in Italia in un modo o nell'altro il calcio è diventato un fenomeno esclusivamente televisivo. Cioè, anche quelli che vanno allo stadio, io ho questa impressione, adesso la butto lì, poi qualcuno si irriterà, va allo stadio per farsi vedere dalle telecamere, non per il piacere di andare. Sono talmente pochi ormai, dici che... E tutto fa parte di una messa in scena televisiva, mentre io, che guardo anch'io con piacere e attenzione la Bundesliga e la Premier League, noto una cosa: che gli spettatori sono spettatori veri, autentici, mentre in Italia una cosa che mi manca molto sono gli spettatori autentici, sono spettatori tutti organizzati come se ci fosse un grande coreografo, un grande assistente di studio, no? Un grande, non diciamo un grande fratello perché lo dicono tutti, comunque qualcosa che inevitabilmente rientra nell'organizzazione televisiva. Non c'è più, come dire, la spontaneità della partecipazione all'evento calcistico. E questa è una differenza sottile ma profonda che mi sembra che conti molto. E quindi, se non si recupera un po' di questa dimensione, inevitabilmente il calcio diventa un'altra cosa. Poi voglio aggiungere una cosa: io ho un altro rammarico, adesso non voglio fare quello che si lamenta sempre, perché insomma ha raggiunto una certa età, noi siamo coetanei, no, se non sbaglio, e questo è un pericolo, insomma, diciamo, pericolo, sì. Ecco, facciamo quest'outing, il pericolo, insomma, è un po' questo, che il nostro campionato viene vissuto da molti, da troppi, come un torneo di qualificazione della Champions League, cosa che mi sembra in altri paesi non ci sia ancora, anche se è di fatto una qualificazione della Champions League, cioè che abbia perso proprio un po' di smalto, un po' di valore, la conquista dello scudetto. E insomma, allora questo è un po' triste, però bisogna anche guardarsi in faccia, bisogna dire di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una cosa per cui ancora si impazzisce quando si vince? Oppure stiamo parlando di una cosa che è diventata un po' di routine, una cosa che serve per andare alla grande vetrina che è quella europea? È vero. Io credo che se qualcuno non si chiarirà le idee su questo, ci sarà sempre un po' di confusione. Giorgio, tutto questo è molto interessante. Vorrei chiudere con un'osservazione suggerita anche da un ascoltatore bolognese che ha mandato un messaggio in questo senso. Questo ascoltatore dice: ma in fondo, se noi abbiamo più offerta, come appunto accadrà, un'offerta più ampia, più spalmata, come si dice in gergo, abbiamo più possibilità di vedere calcio. Tutto questo, e lo chiedo a uno studioso di costume, non solo di radio e di TV, non genera assuefazione? Solo genera assuefazione, ma c'è un altro rischio che nessuno c'è una legge dell'economia, no? Che dice che insomma, quanto un prodotto è più diffuso, tanto meno vale. Sempre per tornare, sempre cercando di evitare la nostalgia, ma tu ti ricordi qual era l'attesa di quel secondo tempo di una partita di calcio? Cioè che merce preziosa era quel secondo tempo, che pure arrivava a cose fatte, a risultato già conosciuto, eccetera. Allora, quanto più c'è una cosa spalmata, diffusa, e tanto meno questa cosa vale. Io non credo che si possa pensare che questo oggetto è ancora, adesso non parliamo della sacralità pasoliniana, ma è una cosa, come dire, così prestigiosa e così di valore se c'è a tutti i momenti. Cioè una partita in diretta la sera ormai è come telegiornale, tu sai, arrivi a casa la sera, accendi il televisore e sai che c'è una partita. Genera, non dico assuefazione, ma genera, come dire, un certo degrado di quell'oggetto. È una cosa come tante, ce n'è sempre, tutti i giorni, tutte le stagioni, a tutte le ore, questa cosa insomma diventa routine. Difficile che possa scatenare, come dire, l'identificazione che ha una cosa invece che appare con i giusti. Sì, se non per i grandi e imperdibili appuntamenti. Dire, anche dal punto di vista economico, chi dice insomma, ma questo insomma, valorizza, io ci starei attento un attimo a pensare che questo valorizzi davvero il calcio. Ci rifletteremo, professore, e ci torneremo presto. Grazie a Giorgio Simonelli. Grazie a tutti voi. Sentiamo qualche intervento di ascoltatori e poi arriviamo anche sulle partite, sulla vigilia delle partite di campionato di stasera, anzi del tardo pomeriggio. Qui siamo in un orario più anglo-britannico oggi, visto che il campionato si recupera alle 18, poi alle 21 c'è Fiorentina-Lazio. Giovanni, provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Volevo dare due motivazioni al mio parere per quanto riguarda i pochi spettatori che si recano allo stadio. E prendo come spunto due fatti che sono accaduti al sottoscritto in compagnia del figlio. Premetto che ho un figlio di 12 anni. Mi sono recato in due stadi e non cito quali sono. E uno per i motivi di violenza e un altro per il costo esorbitante del biglietto, e faccio ricondurre queste due motivazioni alla presenza sempre più esigua di spettatori, quindi la violenza e il costo dei biglietti. E, la violenza, io non sono stato oggetto di violenze diciamo fisiche, però trovandomi in un settore di curva potrebbe tranquillamente dire i nomi di questi stadi, Giovanni, non sono i segreti di Fatima questi. Tanto no, mi trovavo, diciamo, quando la Juventus era in Serie B, mi trovavo allo stadio di Trieste. Sì. E mi trovavo in curva e gli stessi tifosi della mia squadra, visto che una parte della curva non tifava in un certo modo, ci hanno quasi obbligati a uscire dalla curva perché eravamo calmi, eravamo un po' diciamo non esagitati, insomma, certo. Stavamo seguendo normalmente la partita di calcio, quindi la stessa frangia dei sostenitori della squadra ci avevano aggrediti, quindi il bambino allora aveva 10 anni e era stato un po' diciamo colpito. Me lo immagino bene, Giovanni. Insomma, lei sta ampliando le ragioni per cui gli stadi sono meno frequentati. sinceramente lo sappiamo bene, cioè questi biglietti sono cari per una parte, ci ha detto lei, e soprattutto ci sono questi tipi di rischi. In più, che era un po' l'argomento di oggi, la domanda, anzi l'offerta oggi di calcio è così alta, l'offerta di calcio televisivo al caldo, con comodo, anche se non con la stessa spettacolarità visiva e con lo stesso godimento profondo, l'offerta è sempre più ampia, e quindi è normale che anche questa componente allontani il pubblico dagli stadi. Filippo ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, Filippo. Io abito a Milano ma sono un tifoso genovano. Sì. E dissento un po' da quello che stava dicendo il professore, anche se ho ascoltato con molta attenzione, molto piacevole tutte le volte che interviene, ma non sono assolutamente d'accordo, anzi io provo emozione e piacere andare allo stadio, a contrario di quello che stava dicendo, e le assicuro che di gente come me ce n'è veramente tanta, anzi io sono molto arrabbiato per la partita di oggi pomeriggio che non potrò partecipare per i motivi di lavoro, quindi è un'ulteriore preoccupazione per l'anno prossimo, perché a una persona come posso essere io, appassionata di calcio dal vivo e non in televisione, sicuramente questo è un ulteriore problema per l'anno prossimo, non è d'accordo? Ah, sono d'accordo, sì, infatti il cliente per l'organizzazione calcistica, per la Lega in particolare, il cliente è quello televisivo ormai, lei è un cliente anomalo, insomma, è un cliente, non voglio dire a malapena tollerato, ma quasi, ed è questo un po' il succo del discorso di oggi. C'è ste società che vorrebbero evidentemente sempre la botte piena, oltre alla moglie ubriaca, in realtà non riescono a trovare il punto d'equilibrio che invece riescono benissimo a trovare all'estero, e torno a citare per la milionesima volta tutti quei paesi, Inghilterra, Spagna, Germania, in cui si riesce ad accoppiare lo stadio pieno con il massimo degli abbonamenti televisivi. Perché? Perché là evidentemente sanno trovare l'alchimia, qua no, e c'è poco da fare. Parlava prima di violenze, o forse anche soltanto di intemperanze, quell'ascoltatore veneziano, di una curva juventina, in quel caso in trasferta. Un tifoso vicentino di nome Jordan mi ha scritto dicendo: se possibile mi faccia sapere o comunichi in diretta se inizierà la raccolta firme per togliere il nome di Scirea a quella curva di Mentecatti, così farò firmare tutta la famiglia. Jordan, lei ha sentito qualcosa, ma ha in maniera un po' precaria, e io non ho mai raccolto una firma in vita mia, e non comincio certo alla mia verde età. Ho suggerito a dei tifosi juventini sempre più indignati e sempre più disgustati dal dover condividere una passione con certa gentaglia, ho suggerito loro, visto che questa intitolazione a Scirea ormai storica sta diventando assolutamente imbarazzante, assolutamente intollerabile, visto chi è stato Scirea, stavo suggerendo che i tifosi juventini, la cui stragrandissima maggioranza è leggermente diversa da quella che indegnamente li rappresenta, stavo suggerendo di farsi eventualmente portatori o portavoce di un'iniziativa del genere, che però deve essere loro, non mia. Marco Ancona, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo fare una premessa con lei, visto che è l'unico in Italia che riesce a gestire il gioco del calcio parlato. A gestire. Premesso questo, proprio visto che sono un tifoso juventino, si è detto in questi giorni di tutto e di più sul momento Juve. Volevo farle una riflessione, se è d'accordo o anche no. Io mi chiedo, come mai ancora non si riesce a staccare questo cordone ombelicale con il signor Lippi? Nulla togliere al signor Lippi, che è un grande, per carità, ci ha fatto vincere quello che vogliamo, però già ancora una volta torniamo a parlare di un acquisto come il signor Candreva, che neanche con lui ce l'ho, ma anche questo è un uomo del signor Lippi. Allora mi chiedo, l'anno scorso noi abbiamo bistrattato il signor Ranieri, e poi oggi ci ritroviamo, con tutto il bene che voglio a Ferrara, però ci ritroviamo quasi quasi fuori dalla Champions. Allora la riflessione che faccio con lei, lei vuol molto bene a Ferrara, però è l'unico che non chiama signore, perché sono signori tutti meno Ferrara? È solo una questione, ma no, la battuta lei. sì. No, però l'ultima cosa che le dico, come mai, quanto ancora dovremmo aspettare per vedere un cambio di tendenza e avere una società seria che possa tagliare questo cordone ombelicale con Lippi e buttare via questa minestra riscaldata? Grazie Garanzini. Non lo so Marco, Non lo so, perché credo che quello che è accaduto quest'anno qualche riflessione la dovrebbe suggerire, perché poi adesso Candreva è Candreva è un giocatore molto interessante oggettivamente, non so se può essere una pedina indicata adesso per far risalire la Juventus in un momento così difficile, anche perché i giovani nei momenti così complicati forse sono i meno indicati a cavare le castagne dal fuoco. Lo si è visto domenica, sia pure in un'occasione sola, ma lo si è visto con Paolucci, insomma, i ragazzi così vengono mandati allo sbaraglio, non... anziché pensare che possano rendersi utili. Io credo che gli esempi negativi di quest'anno non sia tanto Candreva, siano Cannavaro, sia Grosso, siano questi suggerimenti che oggettivamente non possono che arrivare da lì, che hanno ulteriormente complicato una stagione che già tanto semplice non era. Sentiamo anche Leonardo che ha chiamato da Bari. Buondì. Buongiorno, chi mi ha preceduto ha detto delle inesattezze, signore di Genova, finalmente qualcuno del sud, andiamo sotto il po'. Io parlo da Bari, volevo sapere da lei, dottor Garanzini, che ne è della inchiesta della Procura federale, la credibilità del calcio italiano ancora una volta sotto piedi, di Genova a Bari. Non ne ho idea, non seguo le inchieste della Procura federale se non quando... Anche perché le inchieste della Procura, aspettiamo negli esiti, non sono in grado di seguire il loro decorso. Ho qualche dubbio che si arriverà da qualsiasi parte, ho dato conto anche ieri del malumore dei baresi per quella che indubbiamente era stata quel rinvio di Genoa Bari, che se non era oltre i confini, cioè se non ha già varcato i confini della truffa, arrivava molto ma molto vicino. No, perché c'erano delle ragioni particolari per cui il Genoa aveva piacere che quella partita non venisse disputata e quindi venisse rinviata. Stasera si gioca, sarei contento anch'io se il Bari si prendesse una rivincita sportiva, evidentemente. Se non andrà così sarà per una prossima occasione, sempre nell'ambito, mi auguro, delle rivincite sportive. Sentiamo la vigilia di questa partita e sentiamo due valutazioni incrociate. Cosa dice Gasperini del Bari? Col Bari dovremmo cercare di fare bene le cose che sappiamo fare. È chiaro che tecnicamente sostituire degli attaccanti non è facile, però possiamo fare la nostra partita anche magari su altri aspetti, su altri valori. Genova indubbiamente non è in condizioni brillanti di organico stasera per questo recupero, tra poco più di 3 ore ormai a Marassi. Sentiamo invece Ventura sul Genova. È una partita che, se noi non la interpretiamo bene, non ci arriviamo con l'approccio giusto, secondo me rischiamo di venire spazzati. Se ci arriviamo nel modo giusto, nessuno ci vieta di sperare di fare una buona partita. Di solito quando il Bari fa buona partita fa anche buoni risultati. Effettivamente così accade in linea di massima. Ricordo che il Bari forse ha preso il posto del Genoa di quest'anno, no? Se un anno fa la sorpresa anche qualitativa, anche qualitativa da un punto di vista estetico, calcistico estetico, era quella del Genoa, non soltanto dei risultati e dei punti. Quest'anno il Bari forse qualcosina meno del Genoa come punti, ma qualcosina di anche più convincente dal punto di vista della qualità del gioco, se non altro perché è più, come dire, leggero, è un po' meno pesante, per l'appunto. Toccava Luca da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie. Allora, mi volevo ricollegare alla chiacchierata che ha fatto col suo ospite su due punti. Uno, la presenza agli stadi. Prendiamo tre situazioni differenti, non so, Cagliari e Chievo, il Verona in C1 e il campionato di Serie B inglese. Allora, Cagliari e Chievo a stento arrivano ai 7.000-8.000 partecipanti, Verona in C1 fa 12.000 presenze domenicali, ma anche quando andava un po' peggio 7.000 abbonati. La Serie B inglese si presenta meglio della nostra Serie A. Io la seguo perché, al di là di Di Matteo, di Paolo Sosa, che sono allenatori che mi piacciono, seguo perché è fatta bene. C'è la scheda di presentazione, la partita, come si chiama lo stadio, capacità dello stadio e presenza degli spettatori. Allora, secondo me Cagliari e Chievo rappresentano piazze non adeguate probabilmente alla Serie A o cosa non fare. Il Verona rappresenta il cuore, la passione e il fatto che probabilmente non la fanno vedere in televisione. La Serie B inglese rappresenta il connubio di cosa anche a livello inferiore si può fare per proporre un pacchetto qualificato. L'altro appunto che volevo fare è: io non seguirò il venerdì, questa moda del venerdì venerdì dal lunedì, io mi faccio le cose mie di famiglia, se mi avanza del tempo seguirò le partite. In sintesi, non voglio adeguarmi alla cultura italiana delle tre P: pizza, partita e poppe. Grazie. Grazie a lei, Luca. Vedremo se. Io mi auguro che lei mantenga il suo proposito. Vediamo, gliela auguro, perché in effetti diventare schiavi di una programmazione televisiva, se è possibile no. Il ripasso consueto dell'avvenimento sportivo del 20 gennaio affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 20 gennaio 1993. Esattamente 8 anni dopo il suo esordio in Serie A, Paolo Maldini segna la prima rete in nazionale. L'occasione è un'amichevole disputata a Firenze contro il Messico. La squadra di Sacchi, che sta preparando una delicata sfida di qualificazione a USA 94 contro il Portogallo, si impone per 2-0. Maldini realizza la seconda rete dopo che Roberto Baggio aveva sbloccato il risultato. Per il terzino del Milan, la gara col Messico è anche la prima esperienza da capitano azzurro. Indosserà la fascia in altre 73 circostanze, fino al KO con la Corea ai mondiali del 2002. Guardiola ha rinnovato il contratto con il Barcellona per altri 2 anni, o meglio per 1 anno più opzione, ma è una formalità, perché nel corso dell'annata di questa stagione Laporta, e di questo anno solare anche, il presidente Laporta lascerà l'incarico, si darà alla politica, come ha annunciato da tempo, e quindi Guardiola non ha voluto formalmente ed educatamente essere, non so, farsi trovare sul groppone, per dire, di un presidente che verrà. Conosco allenatori che in passato hanno fatto gesti di questo genere, ne conosco la stragrande maggioranza che non ci penserebbero nemmeno. Rimane il fatto che Guardiola ha fatto anche questo bel gesto, dall'alto, credo, di un potere contrattuale attuale che non ha uguali al mondo, almeno mi immagino. Tocca a Giovanni, Firenze, buongiorno. Buongiorno, veramente un piacere stare a sentirla. Detto questo, io mi volevo ricollegare al motivo per cui, secondo me, che vivo gli stadi, perché io seguo la Fiorentina e sono 3 anni che la seguo tutte le domeniche a Firenze, tutte le partite europee, anche in trasferta. Sì. Quindi ho avuto la fortuna di andare in stadi del Regno Unito, ma potrei dire anche in Germania, in Olanda, e uno si domanda perché il pubblico italiano non viene allo stadio. Io rispondo: perché non ha visto gli stadi che ci sono all'estero. Cioè, è anche una questione di comfort. La gente non va allo stadio, veda all'Artemio Franchi, dove c'è solo la tribuna coperta e il resto è tutto scoperto, e se piove, nevica, fa freddo, chi sta in curva le soffre tutte. Mentre all'estero, il più delle volte, negli stadi sono completamente coperti, per non dire qualcuno è anche riscaldato. Certo. Un'altra cosa, negli stadi europei, per dire, io non fumo e quindi mi darebbe fastidio avere uno vicino che fuma, come succede in Italia. All'estero non fumi, all'estero le famiglie ci vanno tranquillamente, perché te puoi andare anche nel settore dove ci sono i tifosi della squadra avversaria col bambino e nessuno ti dice nulla, perché è quasi una cosa normale. Da noi, siccome io sono vicinissimo al settore ospiti dello stadio di Firenze, da noi purtroppo non è tollerato quasi che il tifoso della squadra avversaria venga nel tuo, fra virgolette, certo, stadio. Certo, è vissuto come un'invasione, come una profanazione, una delle tante deviazioni mentali che affliggono il tifo di casa nostra. Giovanni, grazie. Provincia di Pisa, c'è Marco, buongiorno. Buongiorno, mi ha anticipato l'intervento il ragazzo di Firenze, anch'io concordo, è difficilissimo che ormai la gente vada allo stadio, e i motivi anche se se non vogliono porre rimedio, sono semplici: violenza, stati scomodi, ci si arriva malissimo, perché se uno va andare allo stadio di Firenze in una partita deve perdere mezza giornata, perché anche per il traffico, cioè sono proprio messi in zone ormai congestionate, non è facile. Cioè, ci sono vari problemi che anch'io ho vissuto sul mezzo Spagna. Siamo andati a vedere il Real Madrid così, e avevamo accanto, era una partita Real Madrid e Siviglia, avevamo accanto parte tifosi del Siviglia, una parte tifosi del Real. Sì. E nessuno, non c'era il minimo tipo lei. Sì, Marco, lo dico a lei, ma lo dico anche all'ascoltatore di prima. Tutti questi sacrifici, oppure tutti questi disagi, a fronte poi di uno spettacolo peggiore, perché è inutile che poi, se in Italia, rispetto a come si gioca a calcio attualmente, in questi anni, in Inghilterra e soprattutto in Spagna, se in Italia avessimo poi uno spettacolo migliore, uno dice, allora a Firenze lo stadio è tutto scoperto salvo quel pezzo di tribuna, da quell'altra parte sono le forche caudine e i tornelli e questo e quell'altro, però mi vado a godere lo spettacolo che mi dà il Barcellona, che mi dà il Chelsea, che mi dà, insomma, che mediamente comunque riesco a trovare col Valencia piuttosto che con quell'altra squadra, è un conto. Ma ragazzi, poi vediamo queste partite qua noi quest'anno, cioè, se io mi tolgo il cappello per come gioca il Bari e lo dico con sincera ammirazione, però è anche vero che se il miglior calcio italiano lo gioca il Bari, vorrà dire che qualcosina al di sopra del Bari non sta funzionando al massimo, no? Da un punto di vista estetico, di divertimento, eccetera, con qualche eccezione per il Milan, insomma. Arturo da Genova, buongiorno. Buongiorno, sempre sugli stadi. Secondo me ha fatto uno spettacolo, sicuramente incide, anche se io sono genuano, 2 anni che lo vediamo, per i nostri livelli abituali è uno spettacolo meraviglioso, ma la gente è pochina allo stadio. Secondo me anche il fatto di non poter prendere i biglietti la domenica o senza documenti, poi chi viene, tutta questa burocrazia in più che poi non ha isolato i violenti, ha allontanato molti spettatori. Esatto, esatto. E esatto. I rischi a calcio, secondo me, di fare poi la fine della box, andando troppo in televisione, perché ormai non sa più niente della box. Arturo, ho l'impressione che anche io oggi di persone che avessero torto o comunque che fossero una strada sbagliata ne ho sentite davvero poche, e trovo che lei sia, in particolare, così come gli ultimi due intervenuti da Pisa e da Firenze, che abbiano messo a fuoco il problema o comunque una parte, una fetta cospicua del problema. Grazie a tutti voi che siete intervenuti, grazie a Filippo Aureggi in regia, a Franco Suardi con Franco Piantanida in redazione. Vi lascio al giornale radio, buon pomeriggio a tutti.